Vendo tutto di Matteo Caccia. Mancano meno di 2 settimane alla fine di questo programma. In 5 mesi ho venduto più di 100 oggetti, scritto decine di storie e ricavato quasi 5.000 euro. Ho conosciuto un bel po' di persone, spedito un sacco di pacchi e finalmente comincio a sentirmi più leggero, quindi continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccata a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venitela a prendere. La vendita è aperta. Oggi vendo uno zerbino. 35, Mirko, così ti voglio! Non mollarla, Mirko, non mollarla, è tua, ce l'hai già nel bagagliaio, ce l'hai già a casa, Mirko. 35, ci siamo, 35 e 1, 40! 40 là in fondo! 40 euro e 1, 40 euro e 2, 40 euro, chiusa per Mirko, 40 euro! Insomma, ve l'avevamo promesso, che vi avremmo mandato un podcast speciale di quello che è accaduto nella serata di Vendo Anch'io, la serata conclusiva a Riva del Garda sabato 19 di giugno, e lo abbiamo fatto. Ringraziamo innanzitutto i ragazzi di Radio Nation che hanno assemblato tutto, hanno preso l'audio e ce l'hanno spedito. Ringraziamo soprattutto Paolino Corleoni che è stato a risentirsela, ha tagliato le cose inutili e l'abbiamo messa a disposizione. Potete accederci sia dal profilo Facebook, l'abbiamo appena postata, oppure anche dal sito di Radio 24, la pagina di Vendo Tutto. È un'ora di podcast, è più o meno le cose migliori, Paolo, alla fine, nel senso. Durava quanto? Durava un paio d'ore? Quanto? Un'ora e mezza è durata la serata ed è poco più di un'ora. Il podcast speciale di Vendo Anch'io della serata finale è quindi disponibile. Grazie a tutti quelli che l'hanno reso possibile. Oggi però parliamo... Ah no, aspetta, c'è un altro pezzo da mandare, giusto? Perché abbiamo deciso che facciamo sentire l'inizio e la fine, perché il cuore è stato l'asta, perdonatemi, il cuore è stato l'asta, però la vera conclusione è stata questa. È arrivato il momento importante, entri la busta. Oh, senti qua, è il momento importante questo. C'è Costantino della Gherardesca che noi, annuncia. Noi, poverini, ci siamo la giuria. Riuniti e abbiamo deciso all'unanimità che il vincitore, che the winner is Simona Fabbri. Simona Fabbri! Ecco, questo è stato il... applausi, Costantino chiamava anche gli applausi. È stato il momento finale, quello in cui ci siamo girati e abbiamo visto Simona sbiancare. Temevamo svenisse o che si fosse fatta 98 canne tutte insieme. Più o meno l'effetto è stato quello, l'effetto che le ha dato la vittoria del concorso. Ricordo, andate sul profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto, oppure sul sito di Radio 24 e trovate il podcast della serata finale di Vendo Anch'io. Sono le 16:09, buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Finalmente a Milano c'è un sole, anche se c'è un sole grosso così, anche se c'è un'aria primaverile, e andando in Vespa in giro ancora un pochettino di aria la si sente. Però se siete da queste parti, venite a fare una passeggiata a Milano, che fare una passeggiata a Milano ti rimette in pace con il mondo, perché non è vero quello che dicono di Milano. 349-238-6666 800-24-0024, perché sempre a bomba si torna. Oggi vendo uno zerbino. Ora, lo so che non è facile, però per me lo zerbino non è solo uno zerbino. O meglio, sì, alla fine uno zerbino è solo uno zerbino, però anche no, perché in questo caso per me lo zerbino è stato un po' un simbolo di libertà. Allora, io avevo un grande amore per gli zerbini particolari, non quelli tutti blu, tutti beige o tutti marroni. Mi piacevano gli zerbini fiorati, con le scrittine e quelle boiate lì. E io ho difeso questo zerbino, ho tenuto duro come se lui fosse un compagno di viaggio, contro tutto e contro tutti. Per me questo zerbino è stato un simbolo di libertà. Avete preso, ce l'avrete anche voi, no? Un simbolo di libertà, che sono quelle cose che uno non si capisce bene perché, però è innamorato di quel dettaglio della cresta dei suoi capelli. C'ha l'unghia del mignolo lunga, è presente quelle robe orribili. C'è gente che si tiene l'unghia del mignolo lunga, anche se non è un chitarrista, se la tiene non si capisce perché, e anche se tutti gli danno contro, lui ci tiene a quelle cose lì perché sono veramente un simbolo della sua individualità. Io quella cosa è speciale e io sono un po' speciale grazie a quella cosa. 800240024 0024 349-238-6666, anche se è un taglio di capelli, anche se magari capita, no, quando si diventa grandi, per lo più, che si va a lavorare, si è in banca e si ha l'orecchino e tutti ti dicono guarda che non ti conviene andare a lavorare in banca con l'orecchino, che poi non ti fanno fare i lavori che ti meriti, l'apparenza, tutte quelle menate lì, e voi invece lo difendete, perché quell'orecchino siete un po' anche voi. 800240024 oppure 349-238-6666. Ma anche cose più stupide, tipo uno zerbino, ad esempio, o una montatura per gli occhiali particolare, no? Cioè, roba che se non siete il proprietario della Geox, avere gli occhiali bianchi e neri magari non è proprio carino. Se non siete Giampiero Mughini, gli occhiali rossi magari vi guardano storti. E invece voi li avete difesi, perché quegli occhiali erano voi, erano la vostra libertà. 800240024 349-238-6666. È accaduto così con il mio zerbino. Se volete vederlo, è bello colorato, sembra l'interruzione sul collegamento internazionale quando saltava la linea. Andate a vederlo sul sito, dove c'è anche il podcast, è da radio24.it, oppure sul profilo Matteo Caccia Vendo Tutto. Se invece volete sentire la sua storia, eccoci qui. Lo zerbino. Zerbino a strisce colorate, pelo spesso e fitto che crea una superficie morbida e fonoassorbente, 100% pura lana vergine Woolmark. Lunghezza 90 cm, larghezza 60 cm, lunghezza massimo pelo 9 mm. Ottimo per pulirsi i piedi e litigare con le scelte di condominio. Valore commerciale 39 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Sullo zerbino ci si puliscono i piedi dallo sporco della strada. Per questo, se la reincarnazione esiste, preferirei rinascere Scarafaggio piuttosto che zerbino. Lo zerbino non vale niente, è un po' come la carta igienica. A peggiorare le cose c'è anche il fatto che per me lo zerbino non ha senso, perché dopo 3 giorni è sporco esattamente come il marciapiede, anzi di più, perché raccoglie tutta la schifezza che si accumula sotto le scarpe. Lo zerbino è un oggetto triste e brutto. Ecco, se devo dire la verità, però, ammetto, io non sono sempre stato così. Lo confesso, io un tempo sono stato uno zerbinista puro. Che cos'è uno zerbinista? Uno zerbinista è un acquirente compulsivo di zerbini, banalmente. Per evitare che si trasformassero in oggetti schifosi, e per il rispetto della mia casa, c'è stato un periodo nella mia vita in cui compravo quasi uno zerbino a settimana. Ogni occasione era buona per comprare uno zerbino. Nuovo colore, nuovo disegno, nuovo messaggio di benvenuto. All'inizio il motivo era più che altro igienico, perché me l'aveva insegnato mia madre che in casa bisognerebbe camminare scalzi e che il pavimento dovrebbe essere a prova di bambino. Dopo un po' però è diventata una sorta di ossessione, quindi sono diventato quasi un maniaco. E poi lo zerbino non è solo un posto dove pulirsi i piedi, è anche il biglietto da visita della casa. Comprarne di colori sgargianti, frasi di benvenuto, immagini di animali, parole di lingue straniere, per me era una gioia. Per curarmi da questo strano impulso è bastato accorgermi di quanto mi costasse e quanti pochi soldi avessi invece io a disposizione. Ecco, da lì è cominciato un periodo più ragionevole di distacco dall'oggetto e lo zerbino è tornato ad essere un tappetino dove pulirsi alla bella e meglio i piedi. C'era un tempo in cui ne avevo talmente una venerazione che per non sporcarlo o per rovinarlo lo superavo con un passo lungo quando entravo in casa. E vederlo così per terra, pronto a farsi strofinare di schifezza, mi fa tenerezza in questo momento. Però mi fa anche un po' rabbia, perché se ne sta lì senza ribellarsi, si fa mettere i piedi in testa da tutti e ringrazia pure. È strano, no? Cioè, uno pensa che gli oggetti siano solo dei pezzi di materia inerte. E invece no. Invece, se c'è una cosa che Vendere Tutto mi ha insegnato, è che le cose, tutte le cose, se le usi, diventano vive. Perché quando con una cosa c'hai a che fare, una parte di te diventa quella cosa. Questo zerbino comunque è diverso, perché questo, per questo zerbino qua, io ho combattuto. Non è uno straccetto qualunque, questo è il simbolo della mia individualità, della mia fede, della libertà personale. La battaglia è stata durissima e l'ho dovuta combattere da solo. Contro chi? Ovviamente contro i condomini del mio palazzo, naturalmente. Perché se c'è una cosa importante nel vivere nello stesso fabbricato, è che bisogna essere tutti uguali. Stessi colori delle imposte, stesse tende, stesso carattere nel nome del citofono e soprattutto stesso zerbino. Effettivamente, cosa mi costava a dir di sì, no? Nulla. Però non ce l'ho fatta, perché come dice il mio amico Ardemagni, non saremo mai come ci volete voi. Quindi, signori condomi, questo zerbino non si cambia. I'm not gonna gamble a damn no more and one more full length record before I go. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ba ba ba ba ba. went to Lily and the damage that I do to you, Jessica. I went too fast and deep for you. I didn't know what to do, but I'm not gonna hurt anyone no more. And one more full-length record before I go. Non starò qui a parlare delle assemblee di condominio, no? Troppo facile e troppo banale. E poi, a dire tutta la verità, non ho nemmeno mai vista una. Sì, in un film di fantozzi, sì. Altrimenti mi sono sempre dato malato. Per questo, forse, ho una specie di terrore delle riunioni di condominio. Mi immagino un misto tra un incontro di carbonari, un consiglio dei ministri e la scena dell'orgia, quella di Eyes Wide Shut, di Kubrick. Insomma, una specie di inferno. Perché quello lì è il luogo in cui si decidono le cose. Però è anche il luogo dove le persone si trasformano e diventano dei mostri, per le banalità più ridicole. Il vicino del piano di sopra, Marco, mi racconta scene raccapriccianti, con gente apparentemente normale che perde il controllo per via delle caselle della posta, ad esempio. Oppure signori maturi che si tolgono il saluto a causa di un condizionatore. Madre di famiglia che imprecano per via dei panni stesi. E mi sa che per quanto riguarda il mio zerbino è accaduta proprio una cosa simile. Allora, era un po' di giorni che la gente non mi salutava più. Cioè, non che sia mai stato il pupillo di nessuno lì dentro, però un buongiorno, un buonasera ce lo scambiavamo più o meno tutti. Erano da poco finiti i lavori di ristrutturazione, quelle delle parti comuni, no? La scala, la facciata. E il palazzo era pure diventato dignitoso. Un giorno la portinaia mi fa notare che tutti hanno messo uno zerbino rosso, molto elegante, per rimanere in tinta con la passatoia del piano terra. Io ovviamente le sorrisi perché non credevo che volesse davvero dire che dovevo cambiare il mio. Poi, io ero stato uno zerbinista, quindi conoscevo l'importanza di quell'oggetto. Proprio per quello non avevo alcuna intenzione di farmi impressionare. Il clima che si era creato però non mi piaceva tra me e i condomini. Quando arrivò la lettera di convocazione all'assemblea di condominio, io l'aprii e fu magnifico. Al punto numero 3 dell'ordine del giorno c'era scritto Zerbino Caccia. Io effettivamente pensai che fossero pazzi, nel senso che già la gente si riunisce per pochi motivi a parlare e quelle poche volte devono occuparsi di dire a me quale tappetino mettere davanti alla porta. Dico, non possono parlare di come migliorare la vita del quartiere, ad esempio, di come aiutare la signora al terzo piano che non sta bene e non c'ha parenti, di come organizzare serate danzanti nel nostro cortile. No, devono parlare del mio zerbino. Alla fine avrei anche potuto dare la soddisfazione, no? Con 15 euro me ne compravo uno nuovo e amaranto. Ma non lo feci. Perché va bene tutto. Ma se devono dire anche di che colore mettere lo zerbino, allora poi mi dicono che carta igienica usare, così non ci penso più, no? Insomma, ho resistito. E come sospettavo, non è successo niente di grave. Eppure, nonostante sia un simbolo di libertà, questo zerbino io lo vendo. Il suo valore è di 39 euro, la base d'asta 99 centesimi. Se avete voglia di raccontarmi qual è il vostro simbolo di libertà, 80024 0024. Holly came from Miami, FLA. Yeah. Hitchhiked away across USA. Adesso basta. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Sono le 16:21, questa è Radio 24 ed è tutto a posto, ragazzi. È tutto a posto. È da 5 anni che ho una forchetta al polso. Tutti mi dicono, tutti mi danno della scema, ma poi mi chiedono come l'ho fatta. Ora, Maddi, firmato Maddi, ora mi domando se è una forchetta tatuata o è legata intorno al polso. come si chiamava quel tizio che piegava i cucchiaini, quello con la mente, quello con la, no, Giugas Casella, Laura Fagillo, Giugas Casella. Vabbè, insomma, si è legata la forchetta intorno al polso, ma soprattutto ho in testa una riga biondo platino centrata a destra, larga 1,5 cm, che parte da davanti e arriva fino alla nuca, e lavoro in ufficio. Questo è Giordano. A questo punto non potevamo non sentire Giordano da Vicenza. Pronto Giordano? Pronto, ciao. Ciao, buongiorno. Senti, innanzitutto in che ufficio lavori? In ufficio tecnico. Tipo del comune? No, in un'azienda. Dimmi qualcosa di più, dai Giordano, tipo che azienda è? Sì, lavoro in un'azienda che fa macchine per il vetro, insomma. Macchine per il vetro? Sì. Ok, perfetto. E quindi sei una persona raccomandabile, in teoria? Sì, in teoria sì. E invece sta riga biondo platino, cosa vuol dire centrata a destra? Cioè che non è al centro, tipo Mr. T, per esempio. Tipo Mr.? Mister? Tipo Mr. T di team, hai presente? Ah, ok, no, ce l'ho. Un po' centrata. Ok, e tu di colore ce li hai però i capelli? Li ho fatti neri, giusto per fare un po' più di contrasto. Ah, ma quindi tu te li tingi, cioè capelli e riga, di proposito? Sì, sì, l'ho fatto apposta, non lo faccio sempre. È la seconda volta che lo faccio, la prima volta l'ho fatto 10 anni fa, quindi... Ma Giordano, perché lo fai? Così. No, così no. Mi andava anche come studio sulle persone. Per vedere le reazioni. Per vedere le reazioni. Quanti anni hai, Giordano? 28. E se hai una fidanzata, una moglie? Sì, ho una fidanzata. E lei c'ha una striscia al platino invece orizzontale sulla testa? No, dice che sto bene. No, lei è normale, insomma. Beh, ma anche tu voglio sperare che sia normale, Giordano. Sì, sono normale. Senti, dimmi la reazione più assurda che hanno quando ti vedono, in modo che così tu fai i tuoi calcoli sociologici. Domingoli strani. Come? Domingoli strani, soprannomi, tutte cose così. Ti danno? Sì. Qualcuno mi guarda male, ma dopo... Dimmi un nomignolo, Giordano, se lo devo proprio tirare fuori, dimmi un nomignolo. No, è che sono... cioè, mi stanno guardando, quindi no... Chi ti sta guardando? Per la riga platino? No, perché sono... cioè, mi sono preso due minuti di pausa, ma insomma, non potrei tanto, quindi... Ma scusami, ma in studio, in un ufficio, ascoltano Radio 24? No, lo ascolto io, mi lasciano ascoltare anche la radio. Ma con le cuffie? Quelle cuffiette, sì. Ah, ok, perché tu disegni, giusto? Sì. Va bene, Giordano, a questo punto i tuoi minuti sono finiti e ti lascio tornare al lavoro. Quindi mi segno riga biondo platino centrata sulla destra, larga 1,5 cm. Giordano, grazie mille. Se ti servono lezioni di batteria, chiedi. Va bene, ok, grazie Giordano, alla prossima. Ciao, ciao. Intanto così diamo notizie calcistiche. Il Sudafrica è passato in vantaggio sulla Francia. Vince 1-0. Andiamo invece in provincia dell'Aquila da Andrea. Pronto, Andrea? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene. Tutto bene, tutto a posto anche tu. Ci sentiamo in un mese. Ah, magnifico, quindi vuol dire che sei proprio lì che aspetti che dia il numero di telefono. Le 16 del pomeriggio per ascoltarti. Tu che cosa fai invece, Andrea, nella vita? Io lavoro. Faccio l'autista e consegno. Ma consegno di alimenti. E sei in giro per la provincia dell'Aquila? Ah, in tutta l'Abruzzo. Ok, senti Andrea, raccontami invece qual è il tuo simbolo di libertà, quello da cui non ti separeresti mai e per cui lotti. No, guarda, è un po' un oggetto che, diciamo, non è direttamente mio. Ti racconto. Vai. Nel 2008 sono stato in vacanza io e un'amica mia da alcune amiche a Milazzo. Allora, una mattina decidono di portarci all'isola di Vulcano. Sì. E la mamma dell'amica che ci ospitava ci si presenta con un cappellino. Sì. Dice, dai, portate il cappellino che fa troppo caldo e qua di là. Io, diciamo... ho accettato, ho detto sì, va bene, lo porto, e tutte quante mi ridevano, mi prendevano in giro, tutto leccaculo, di qua, di là. La cosa bella, andiamo all'isola di Vulcano, sole, noi con l'ombrellone, dopo 10 minuti una ragazza mi fa, ma che lo usi il cappellino? Ho detto no. Scusami, mi ripeti come te l'ha chiesto esattamente, Andrea? Come me l'ha chiesto? Che lo usi? No, mi ha detto, stai usando il cappellino? Niente. E io ho detto, veramente, adesso no. E allora che me lo presti, che mi dà fastidio il sole? E quindi ho avuto, diciamo... La tua vendetta, insomma, la tua rivincita. La mia vendetta. La tua rivincita. È stato il mio oggetto di libertà contro il sole, per vincere il sole. Contro il sole e contro il mondo. Andrea, dove ti trovi in questo momento? Sei in giro, in viaggio, per strada? Adesso Manoppello. Manoppello. Laura Fagin dice, Manoppello, come no, lo conosco. C'è il lago di Manoppello, giusto? Ma Manopello, c'è cioè il volto santo di Manopello. Vabbè, niente, la Fagino ne sa una. Andrea... Comunque posso salutare le mie amiche? Ma come no, guarda, non l'abbiamo mai fatto, ma oggi vale un po' tutto, dimmi chi sono. Va benissimo, allora Giuseppina, Monica, Giusi e Liliana. Grazie Andrea, alla prossima. Ciao Matteo. Ciao, stai bene, mi dispiace Alessio da Roma, lo sentiamo un'altra volta. Mi scrivono che quello che piegava i cucchiaini era Uri Geller. E soprattutto, ma descrive, è una forchetta vera, piegata intorno al polso. Grazie a lei, grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. Lo Zerbino, come al solito, è sul sito. Domani vendo un supporto per l'iPod. Se invece voi avete uno Zerbino diverso da quello del vostro condomino, tenetelo, che la libertà è sempre la libertà. Love, love, love, wherever.